Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. La lignina è uno dei più abbondanti biopolimeri presenti in natura, secondo solo alla cellulosa, insieme alla quale costituisce parte integrante delle pareti cellulari delle cellule vegetali. La lignina è abbondante soprattutto nelle piante legnose, da cui prende il nome e a cui conferisce appunto la resistenza tipica del legno. Nell'ottica della chimica verde, oggi ne abbiamo parlato altre volte, la sfida è trovare applicazioni per tutte le frazioni di quello che abbiamo definito spesso il barile di biomassa. Questo è esattamente come è accaduto in passato con il petrolio e gli altri combustibili fossili, di cui abbiamo imparato a sfruttare tutte le componenti, le frazioni pesanti, quelle più leggere. Insomma, la lignina è uno di questi componenti del barile di biomassa e ha un grande potenziale che però per essere sfruttato richiede ancora parecchia ricerca. Ne parliamo con Flavio Manenti, che è professore di ingegneria chimica del Politecnico di Milano e anche dell'Università Tecnica di Berlino, dove si trova in questo momento. Buonasera Manenti. Buonasera a voi e ai radioascoltatori. Ci ricordi magari un po' meglio di come l'ho fatto io, che cos'è questa lignina da un punto di vista chimico, ecco, che se con semplicità. Ma ha detto molto bene. In sostanza la lignina è comunque un polimero, è un polimero che però non è così lineare come può essere la cellulosa o l'emicellulosa, ed è in sostanza una miscela particolarmente complessa di composti, composti che sono costituiti prevalentemente da carbonio, idrogeno e ossigeno. Quindi tanti idrocarburi, no? Legati, molecole di idrocarburi legate in modo molto complicato, aggrovigliate e quant'altro. Assolutamente sì, diciamo che la complessità del polimero è anche nella sua struttura, che non è assolutamente lineare come possono essere i polimeri che quotidianamente immaginiamo. Dalla cellulosa, per esempio, si punta a ricavare biocombustibili come l'etanolo e anche tutti i suoi derivati. Dalla lignina che cosa pensate di ottenere? Ma la lignina è candidata a diverse all'ottenimento di diverse molecole ad alto valore aggiunto che possono essere utilizzate in diversi settori. Ora, per esempio? Come settore si va dalla farmaceutica alla cosmesi, ad aspetti nutrizionali. È chiaro che tutte queste sostanze richiedono un notevole sforzo a livello di separazione e a livello di purificazione. Per cui a fronte di una candidatura forte della lignina all'ottenimento di queste di diverse molecole interessanti bio, c'è però anche la richiesta di un notevole sforzo a livello ingegneristico di come ottenere questi prodotti poi ad un livello di purezza tale per cui possano essere utilizzati. Proprio per le ragioni che dicevamo prima, no? Il fatto che questa lignina è un intreco molto complicato di tanti composti diversi disposti in modo a loro volta complicato, e quindi insomma separare le varie tipologie diventa veramente difficile, al punto che oggi gli utilizzi sono molto diversi da quelli che lei mi citava, come la nutraceutica o la farmaceutica. Assolutamente sì, al di là di questi composti ad alto valore aggiunto c'è la possibilità di utilizzare la lignina, come alcune parti della lignina, come base per la produzione di polimeri particolari, o a maggior ragione quello che si fa oggi è la gassificazione della lignina, ovvero la decomposizione termica di quello che è il polimero della lignina in essenzialmente monossido di carbonio e idrogeno. Questa miscela viene anche identificata come gas di sintesi, ossia gas, che è poi la base, il mattoncino base per produrre eventualmente idrogeno, se lo si vuole, oppure per produrre green diesel attraverso tecnologie gas to liquid, o produrre per esempio metanolo, biometanolo. Che è uno degli intermedi chimici più promettenti in assoluto, vero? Assolutamente. Quello sì. che ci hanno fatto bere un po' di anni fa nel vino, ecco, non è il caso di berselo, però in realtà è preziosissimo. Il metanolo aggiunto in altri liquidi. Da cecità, quindi. Sì, comunque il metanolo è decisamente una delle più interessanti, perché anche a livello scientifico si parla della methanol economy, dove un po' la maggior parte dei prodotti potrebbero passare dal metanolo. per cui è sicuramente uno dei composti della chimica di base più importanti in assoluto. Ci sono altri utilizzi però del syngas che viene dalla lignina, perché uno può anche decidere di generare potenza così direttamente. Bruciarlo così com'è, un ottimo combustibile. Sicuramente questo è l'ultimo degli utilizzi. Dopo che si sono estratte tutte le molecole ad alto valore aggiunto, a medio valore aggiunto e dopo aver estratto e averla gassificata, effettivamente quello che rimane può essere decisamente una combustione. Grazie Flavio Manenti. Grazie a voi per l'opportunità, un saluto a tutti. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.